L'apparenza inganna. Leggo nella Bibbia in 1 Samuele 16, 7. Ma il Signore disse a Samuele: non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. La prima impressione che abbiamo di una persona è molto importante, ma spesso può trarre in inganno. Normalmente tendiamo ad essere ben disposti verso qualcuno di bell'aspetto, che si presenta bene, magari con un bel vestito, con una certa simpatia ed eloquenza. Tendiamo invece ad essere prudenti verso coloro che a prima vista non ci fanno una bella impressione. Molto spesso le persone che riescono meglio a truffare il prossimo sono proprio quelle che riescono a presentarsi bene, nascondendo le proprie vere intenzioni. Il caso di Samuele nel verso in esame è emblematico. Lui si trovava davanti tutti i figli di Eli e doveva scegliere tra di loro colui che sarebbe stato il futuro re di Israele. Trovandosi davanti Eliab, aveva pensato: certo, l'unto del Signore è qui davanti a lui. Evidentemente l'aspetto del ragazzo, i suoi muscoli, la sua altezza lo avevano ben impressionato. D'altra parte il primo re di Israele, Saul, era giovane, bello ed alto, come è scritto in 1 Samuele 9:2. E quindi non stupisce il fatto che Samuele si aspettasse una scelta analoga. Ma Dio aveva scelto Davide, che probabilmente al primo sguardo non avrebbe impressionato Samuele nello stesso modo. Eppure Dio lo conosceva bene, conosceva la sua fede e aveva visto il suo coraggio e la sua forza mentre si occupava del gregge come un umile pastore, lontano dallo sguardo degli altri. Qualche tempo dopo, quando un gigante filisteo di nome Goliath si fece avanti per insultare e mettere in ridicolo gli israeliti, sarebbe stato lecito aspettarsi che il loro re Saul, alto, forte e bello, ne facesse un sol boccone. Non era stato unto proprio per occasioni come queste? Ma Saul aveva paura come tutti gli altri. È scritto in 1 Samuele 17:11. Davide il pastore invece si dimostrò un vero guerriero e tutto il popolo vide il suo coraggio che fino a quel momento era rimasto nascosto persino agli occhi dei suoi familiari. Dio conosce ciò che è intimo e nascosto nell'uomo, ciò che gli altri non possono vedere. Non dovremmo valutare mai le persone secondo parametri che da un punto di vista umano possono sembrare rilevanti, ma dal punto di vista di Dio sono invece secondari. L'apparenza inganna. Qualcuno dirà: come posso fare per evitare di affidarmi alle apparenze? In effetti il Signore guarda il cuore, ma io come posso fare? Potremmo cominciare con l'essere meno superficiali nelle nostre relazioni, cercando di conoscere meglio sia il pensiero che il comportamento di una persona, in modo da avere qualche elemento in più per fare le nostre valutazioni. Ciò che diciamo o facciamo è proprio lo specchio di ciò che è dentro di noi. Infatti Gesù disse: ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo. Matteo 15, 18. È quindi ovvio che per conoscere ciò che è nel cuore di una persona dovrò basarmi su ciò che emerge dai suoi atti e dalla sua bocca. In un'epoca in cui l'apparenza è tutto, come Samuele, dobbiamo tenere presente che Dio non guarda all'apparenza delle cose. Dobbiamo quindi imparare a grattare sotto la superficie per individuare la sostanza che si cela dietro ciò che attira il nostro sguardo.